Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'inno sta il più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buongiorno in questo sabato assolatissimo di Milano, 17 giugno, delle 10:08 primi e 10 secondi. Siamo in diretta qui da Milano, vi ringraziamo come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast, in studio insieme a me Mario Seminerio, mentre Carlo Alberto Carnevale Maffè ci raggiungerà dopo le 11 perché è a Bruxelles nell'eroica battaglia a nome di un'associazione di consumatori per vedere di non fare troppi pasticci dal punto di vista dell'Unione Europea rispetto ai grandi gruppi digitali che hanno sostanzialmente innovato la modalità di offerta online di molte cose. Questa è proprio ieri la notizia del grande gruppo Amazon, che è entrato nella grandissima distribuzione comprandosi per miliardi una catena di supermercati. Sapete che è in cottura l'Unione Europea una mega sanzione, si parla di un miliardo verso l'ennesimo over the top americano, ma detto questo ci raggiungerà più tardi. Allora, di che cosa parliamo oggi? Ve lo diciamo subito se volete chiamarci all'800240024, più tardi naturalmente c'è anche Mario Seminerio e rimarrà collegato a grandissima richiesta per oltre un'ora a cavallo dei temi che ora vi preannuncio anche il grande Fabio Scacciavillani. Ma tocchiamo in buona sostanza, dopo l'inizio in cui facciamo come sempre con Mario Seminerio il punto su alcune novità della settimana, due grandi temi oltre a questo. Il primo sarà un punto sulla complicata perigliosa vicenda delle due banche venete, alla luce di tutto quello che si è letto, delle ipotesi, alcune fantasiose, altre incomprensibili, a cui starebbero lavorando i regolatori italiani. Abbiamo letto di liquidazioni ordinate, che non abbiamo capito cosa siano, abbiamo letto di un piano B, di una risoluzione soft, che anch'essa ha costretto quasi tutti a dire sui social: non riusciamo tecnicamente a capire di che cosa si stia parlando. Ieri è arrivato il decreto che sospende un Bolter 2 che scadeva mercoledì di questa settimana, e tenteremo di capire che cosa vuol dire questo intervento, ma soprattutto ci porremo un problema di fondo. Conviene davvero tutta questa strada italiana fatta di dilazioni rispetto a quello che resta in quelle due banche e rispetto invece alla rapidità? Ne parlammo sabato scorso, con cui gli spagnoli sono intervenuti sul Banco Popolare. Quindi parliamo di questo. Siate detentori di qualunque obbligazione, cosa, insomma, interessi sulle due venete, chiamateci se volete 800 24 00 24. C'è un altro punto sul quale vogliamo fare chiarezza, lo faremo con Ugo Arrigo, il professor Ugo Arrigo, che riguarda i conti di Alitalia, perché noi questa settimana insieme a lui ci siamo posti un problema: ma è possibile che non sia chiaro capire i numeri della società? Guardate che è un problema serio. Noi siamo entrati nell'amministrazione commissariale, con commissari straordinari, senza avere il bilancio 2016. Il bilancio 2016 doveva essere presentato a metà aprile, non è stato presentato. Senza i numeri del 2016, i conti, sia quelli presenti, aggiornati a febbraio, del conto economico e patrimoniale, che sono presenti nella sentenza che è la base dell'insolvenza e della nomina commissariale del Tribunale di Civitavecchia, bene, quei numeri non ci tornano. Non ci tornano i numeri fatti dai commissari. Vi spiegheremo bene perché questa domanda, che per noi è inquietante, la mancanza del bilancio 2016, dovrebbe diventare la prima cosa da chiedere a ogni dichiarazione dei commissari: tirate fuori i conti e fateci capire. Ve la spiegheremo meglio. Senza di questo non si capisce dove stanno andando, a dire la verità, e non si capisce bene neanche la base di quello che stanno dicendo nell'ultimo mese, per il quale sarebbero entrati con una gestione attiva di cassa, sentendo i commissari. Allora, siccome se non si capisce questo, non si capisce quanto andrà avanti la cosa dei commissari e con che fine, è una domanda centrale. Noi lanceremo un appello a chi detiene un particolare titolo all'Italia per fare un'istanza, quindi ne parleremo concretamente in questi termini precisi, senza fare domande generali a chi venderla, a chi non venderla, come, perché manca un pezzo di fondo di chiarezza pubblica senza di cui stiamo parlando di una cosa che nessuno è in grado di valutare. Oltre a questo faremo anche una riflessioncina su cosa sta avvenendo in Medio Oriente, Qatar, non Qatar, Trump, eccetera eccetera. Poi concludiamo con Renato Cifarelli. Allora, oltre a quello di cui parliamo dopo la prossima interruzione sulle cose della settimana, il fondo monetario eccetera, Mario, qualche altra cosa da segnalare? Due cose molto rapide, una a beneficio dei milanesi ma non solo. Volevo dire ai miei concittadini di stare sereni, perché nella lotta alla deflazione il sindaco Beppe Sala si sta impegnando al massimo, perché i parcheggi su Striscia Blu sono passati da 1,30 a 2 euro l'ora, per cui state sereni, la deflazione sarà solo un cattivo ricordo del passato. Lo vogliamo il PIL nominale più alto? Assolutamente, ma infatti poi ci faremo anche corposi editoriali dove spiegheremo come fare ad abbattere il debito alzando i parcheggi su Strisce Blu. L'altro punto, molto rapidamente, perché Oscar ne hai già parlato tu ieri pomeriggio alla versione. Dunque, voi sapete, ieri abbiamo saputo che per quanto riguarda i trasferimenti interprovinciali dei maestri elementari verso le regioni meridionali, ben il 53% di questi trasferimenti è stato possibile grazie alla legge 104, che è quella che tutela i lavoratori che assistono familiari disabili. Ora, la mia prima reazione, poi non mi soffermo più di tanto perché, cioè, mi pare anche tempo perso commentare su queste cose, è che un ulteriore elemento del fallimento dell'Italia unitaria, e con buona pace di tutte le discussioni su prevenzione, livelli essenziali di assistenza e quant'altro, che l'Italia è spaccata in due, cioè metà dell'Italia che ha seri problemi di salute. C'è un'emergenza sanitaria protratta in questo paese che tende a cronicizzarsi e a diventare ingravescente. Per cui io vorrei fare un appello alle istituzioni: fate qualcosa, perché stiamo perdendo mezzo paese sul piano sanitario. Stringete i LEA, fate qualcosa. Ironia. Sì, è ironia. Sennò ironia porta lì via, diciamo. Ecco, dopodiché divento lievemente più serio. Siccome tutti hanno pagato il loro lip service alla legge 104, misura di civiltà, eccetera, eccetera, la legge 104 è certamente una misura di civiltà, però se in questo paese, come sempre succede, le misure di civiltà vengono prese, attorcigliate, arrotolate e diventano semplicemente la scappatoia anche per giustificare problemi culturali, deprivazioni e quant'altro, vedi ad esempio risultati accademici, scolastici, eccellenze numeriche e quant'altro, noi continueremo ad avere un problema. Adesso ditemi pure che sono criptoleghista, non me ne può fregare di meno, perché i dati, i numeri e le circostanze parlano, o meglio urlano. Io aggiungo un'unica cosa relativa al sequestro dei diritti della mobilità per milioni di italiani imprese ieri in buona parte d'Italia per via dello sciopero dei trasporti pubblici locali, a cui si è aggiunto poi quello dell'Alitalia, che era proclamato da alcuni sindacati di base. Trovato sul messaggio di oggi cosa penso, lo penso da anni, lo ripeto, serve un solo intervento, non si risolve nemmeno con i criteri di rappresentanza minimi dei sindacati sul totale per poterli proclamare, ci vuole un referendum preventivo per poter proclamare lo sciopero in alcuni servizi pubblici essenziali come i trasporti, e in quali ci voglia il 50,01% preventivo del voto dei lavoratori di settore. La politica lo sa benissimo, ho richiamato anche oggi per l'ennesima volta un'intervista a Del Rio del 2015 in cui l'allora ministro, era sottosegretario alla presidenza del Consiglio all'epoca, si diceva favorevole. Anche oggi Del Rio torna a parlare su molti giornali, come Corriere della Sera, e si dice favorevole, però tutti i governi poi dicono ma la materia è delicata, se ne deve occupare il Parlamento. Quindi da una parte i politici vanno sui giornali dicendo che sono favorevoli alla riforma, dall'altro non la faranno mai. Ecco, questa ipocrisia di fondo, però, cari ascoltatori, perpetua nel tempo il fatto che sigle ridotte, che io rispetto, nel rispetto delle leggi attuali, perché loro non stanno violando la legge, cioè dei tempi minimi di proclamazione, sequestrano l'Italia. E questa storia va avanti da anni, e da anni la politica dice, alcuni pezzi della politica, no, ma bisogna finirla con questa roba. Sono loro che la devono finire, loro, nessun altro. Quindi, cari colleghi, bando a interviste in cui vi fate dire dai politici io sono d'accordo ma ci deve pensare qualcun altro, perché vuol dire che non è d'accordo. Cioè l'intervista deve chiudersi con: bene ministro Delrio, allora ci sta dicendo che lei non vuole fare nulla, punto. Ecco, punto, basta che si sappia, io non ho alcuna presunzione che la mia opinione minoritaria passi un giorno o l'altro, ma la cosa che sono poco disposto ad accettare è che il ruolo dell'informazione sia dare una mano a come la politica poi prende in giro la sostanza delle cose. Questo lo dico da giornalista minoritario. Io rispetto, credo profondamente che il ministro Delrio la pensi così, se no non sarebbero passati anni in cui ogni volta lo dice. Però a quel punto i governi non possono avere l'alibi di dire ci deve pensare qualcun altro. Ci devono pensare i governi. Se non è un'emergenza questa, i cui impatti e anche economici sono molto elevati, ne vedo poche altre. Ecco, dedicassero a cose così la centesima parte delle energie che sprecano per prendere a calci la balla lattina delle banche, ecco, sarebbe forse un po' più importante, perché queste sono le cose fondamentali per cui i governi dovrebbero esistere. Torniamo tra un minuto. Della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Ed eccoci qui tornati in diretta. Caro Mario, ma ricorda che devi morire, ma questa settimana invece è arrivata una potentissima, solidissima, internazionalissima iniezione di ottimismo e di buoni dati dal Fondo Monetario Internazionale. Sì, sì, sì. No, ma infatti a me ha colpito molto. Allora, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo la nostra crescita per il 2017 a 1,3, torna lievemente a flettere nel 2018. Poi naturalmente stiamo parlando di modelli econometrici, non di tarocchi, delle carte o di altre cose, quindi bisogna un attimo fare la tara per questi numeri. E la cosa ha suscitato letteralmente l'entusiasmo del premier Paolo Gentiloni, il quale ha dichiarato, c'era anche l'audio in settimana, che praticamente, com'è che ha detto, siamo nello spazio, siamo finiti nello spazio, in orbita. Ora, vabbè, cioè, ognuno può essere felice, diciamo, del poco che si porta a casa, però diciamo che nello stesso set di previsioni il Fondo Monetario Internazionale ha alzato la Spagna per quest'anno dal 2,8 al 3,1%. Quindi le revisioni al rialzo sono generalizzate. Siccome l'Italia non è una monade, ma vive, come dire, in un contesto in cui interagisce anche con gli altri paesi dell'Eurozona, e in questo momento la crescita in Eurozona sta andando molto bene, perché cioè, è oggettivo e ve lo diciamo da parecchi mesi, da quando è iniziata la ripresa vera, che sta andando molto bene, siamo tutti contenti. Per cui non siamo nello spazio, torniamo con i piedi sulla terra, è un buon dato. Ripeto, per me, che non sono il professor Fortis, il dato del PIL del primo trimestre è lievemente pazzerello, nel senso che è costruito in una maniera che presta il fianco a criticità di tipo statistico. Te, lo dico per rassicurare. No, ma della sì, tua... ma anche io chiaramente sono, come dire, deviante, parlo per me stesso che non sono nessuno. Secondo me, cioè, non vorrei che, come dire, ci fosse già dalla prossima stima del secondo trimestre qualcosa di rallentamento, un qualche rallentamento. Nel frattempo, se torniamo che l'annuncio, uno dei tanti, il professor Forti, secondo cui siamo, il debito pubblico è stabilizzato da molti trimestri, per il momento la Banca d'Italia ha dato questa settimana, non mi sembra corroborare, ma questo lasciamolo. Sì, ma scusami, l'ha detto anche Renzi dalla Gruber, che la curva debito PIL sta iniziando a piegare, cioè c'è chi... Da un lato ci sono quelli che seguono le scie chimiche, dall'altro ci sono quelli che guardano la curva debito PIL. Ognuno ha le proprie, come dire, fantasie, no? Comunque il dato di fatto è che come stima di crescita mondiale stiamo andando a una crescita come da anni e anni non c'era mondiale. Sì, adesso vero, vedremo, è però è così. È vero, malgrado la presenza di Trump. Malgrado la presenza di Trump, qui faremo una riflessione dopo le 11:30. Malgrado la presenza di Trump, che però ci allieta le giornate, come dire, con il suo essere così simpaticamente sociopatico, diciamo che la crescita mondiale va per ora. Quindi lasciamola andare. Però, Oscar, io questa settimana volevo un attimo allontanare l'occhio dall'ombelico domestico e guardare un attimo quello che è successo nel Regno Unito, perché sono successe delle cose secondo me molto interessanti. Sì. Intanto il dato di inflazione di aprile, se ricordo bene, il tendenziale è arrivato al 2,9%, ha fatto molto peggio del consenso che era al 2,7%. Dopodiché la stima della crescita delle retribuzioni nominali in maggio è stata dell'1,7%, senza bonus, quindi senza componenti retributive non fisse, e del 2,1% con i bonus. Con un complesso algoritmo ed una complessa inferenza si capisce che nell'ultimo anno i salari reali, quindi che non sono quelli della regina Elisabetta ma sono quelli al netto dell'inflazione, sono calati in Regno Unito dello 0,4-0,6%. Notate, cari amici all'ascolto, che il Regno Unito durante la Grande Recessione, negli 8 anni successivi alla Grande Recessione, ha avuto una perdita di valore reale delle retribuzioni del 10% e ha fatto peggio di tutta l'Europa assieme a chi? Alla Grecia. Nel senso, i britannici hanno salvaguardato i livelli occupazionali al prezzo però di una robustissima perdita di potere d'acquisto. Noi italiani in quello stesso periodo abbiamo avuto un incremento delle retribuzioni reali di circa l'1,5%. Allora, senza scendere troppo nei numeri, in Regno Unito c'è un tasso di occupazione incredibile, perché è disoccupazione al 4,6, tasso di occupazione quasi al 75%, massimo storico di tutti i tempi. Lavorano tutti in Regno Unito, però... Ricordiamo che il tasso di occupazione italiano è 57%. Sì, ma tutti ti diranno che noi abbiamo quelli che lavorano in nero. Quello e noi informeremo vuoi. Il gran capo e sti cazzi con l'occasione, diciamo. Quello che ecco. vuoi, ecco, però, cioè... Cosa succede? Quando vengono a dirvi alcuni affezionati del concetto nominale dell'illusione monetaria che se non si può svalutare la moneta si svaluta il lavoro, voi mostrategli questi dati britannici e fate umilmente presente che quello che conta non sono i dati nominali ma sono i dati reali. Le chiacchiere stanno a zero. Non solo, ma sono uscite in settimana le minute del meeting della Bank of England di maggio. Inopinatamente, per 5-3, 5 membri del Comitato di Politica Monetaria contro 3, hanno votato per 3 hanno votato per alzare i tassi e 5 per mantenerli invariati. Nel meeting del mese prima era 7-1. Questo che significa, in soldoni, che cresce all'interno del Comitato di Politica Monetaria della Bank of England il disagio per una crescita dell'inflazione che rischia di minare la crescita dell'economia britannica. Ora, forse Mark Carney subito dopo il referendum Brexit è stato troppo, come dire, appestato troppo sull'acceleratore dell'allentamento monetario, del QE e quant'altro. Però resta il fatto che il Regno Unito in questo momento, crescita in rallentamento, inflazione in accelerazione, salari reali in flessione che diventano negativi, ha un bellissimo scenario di rischio di stagflazione. Esatto. E visto che la settimana prossima dovrebbero formalmente iniziare i colloqui per la Brexit tra l'Unione Europea e il governo britannico, suggerirei di seguire attentamente l'evoluzione, così magari potremo risparmiarci di leggere sui giornali italiani da alcuni fantastici editorialisti che la Brexit è stata un successo, perché avreste sinceramente rotto le palle con queste follie che vi portate dietro da un anno. Allora, detto questo, c'è anche poi un aggiornamento politico fondamentale, perché questo quadro di incertezza e di andamenti dell'inflazione molto, molto, tra virgolette, insomma, preoccupanti della Gran Bretagna, si incardinano, Mario, in una situazione che vede gli effetti del voto politico chiesto in maniera anticipata dalla May come bis del colossale errore fatto da David Cameron chiedendo il referendum. Referendum e voto anticipato, forse sì, Renzi sì. capisce. Però, detto questo, sono a oggi ancora impossibili a essere valutati. Cioè, l'accordo con i nordirlandesi tutti hanno capito, e in primis la maggioranza del partito conservatore, che non è un accordo in grado di camminare, perché è un accordo in buona sostanza con l'espressione di una forza politica iperconservatrice sui valori, eccetera. Dopodiché chiede però al tavolo della Brexit, chiede di tenere aperta la libertà delle persone, sono l'unica parte del Regno Unito a avere il confine fisico, no? con esatto. l'Europa, esatto. Quindi non vogliono rinunciare alla libera circolazione delle persone, quindi non vogliono rinunciare al mercato unico, non vogliono rinunciare all'accesso dei fondi, dei sussidi delle politiche agricole, non vogliono rinunciare all'accesso dei fondi per le politiche di coesione, tradotto non vogliono la Brexit, capisci che è un po' complicato. Io vi suggerirei di fare una robusta scorta di popcorn. Ecco. Dopodiché è cresciuto in questi ultimi giorni, proprio negli ultimi tre giorni, un numero crescente di leader sempre più rappresentativi del passato, ma di peso, del Partito Conservatore, hanno iniziato a dire: Theresa May non arriva alla fine dell'estate. Ieri è stato Michael Portillo, ex vice leader per anni e anni, nel periodo a cavallo tra la Thatcher e Major del Partito Conservatore, a dire, dopo la prova data incredibile con i familiari delle vittime del grattacielo andato in fiamme a Londra, già gli italiani non hanno dato molto peso, Theresa May non ha voluto incontrare le famiglie per paura di essere contestata, mentre James Corbyn li ha incontrati dialogando con loro per ore, ma è ovvio, di fronte a una tragedia di quelle proporzioni non puoi avere la preoccupazione di evitare che qualcuno dica non avete fatto abbastanza. Ecco, ieri Portillo ha detto, dopo cose così e visto il fatto che l'accordo politico contraddice quello che lei dice, mi stupirei se arrivasse alla fine dell'estate. Quindi l'inizio del dialogo su Brexit, su cui in realtà, al di là dei 12 punti, Theresa May non ha mai dettagliato cosa vuole. Voleva una cool Brexit all'inizio, né hard né soft, poi la voleva hard in campagna elettorale, il suo partito adesso dice deve essere soft. Però lei era una Remainer, lei era una piccola opportunista, una piccola opportunista da strapazzo, come ne vediamo tanti nel nostro teatrino domestico, quindi tutto il mondo è paese. Quindi il problema è che il suo partito, tradotto alla luce del come il Partito Conservatore si libera dei leader che non sopporta più o non costerà giusti, crea un incidente poi in Parlamento dietro cui bisogna tornare a votare, perché questo è quello che stanno, un numero crescente di leader di peso, ripeto, del Partito Conservatore, dicono così noi non siamo in grado di farla la trattativa con l'Europa. Il che ulteriormente si aggiunge a quello che diceva Mario su attenti per favore a dire la Brexit, loro non sanno come impostarla. Ecco, questo è il punto di fondo. Bene, torniamo tra un minuto. Notte di lacrime, preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Una notte da paura, una notte di passaggio, una notte che è anche una festa. Insomma, una notte da vivere e da rivivere. È la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e insieme alla cantante Mariam Miraj vi aspetto martedì 20 giugno dalle 21 alle 24. Tre ore di voci, di sogni, di racconti, di maturandi, di testimonianze, di consigli, di attori, scrittori, artisti, per prepararsi insieme all'esame di maturità. La notte prima degli esami. Una notte che è tutto un programma. Ovviamente su Radio 24. In collaborazione con scuola.net. E ogni giorno sulla pagina web di Cuore e Denari un consiglio pratico per affrontare al meglio la prova. Questo programma è presentato da Credimi.com, il finanziamento digitale. Della belva. Eccoci tornati in studio, 10:34 primi 46 secondi, insieme a Mario Seminerio. A Mario Seminerio. Beh, dopo tanto tempo puoi dire Mario, però su, sì, sei co-conduttore e co-ideatore del programma. È tornato il nostro ospite fisso quando parliamo di banche, cioè Gianluca Codagnone, Managing Director di Fidentiis. Grazie Gianluca di essere qua. Buongiorno a tutti. E l'ha detto in italiano. Dai, non cominciamo. Faremo la traduzione simultanea oggi. Allora, tranquillo. Io devo dire a chi ci ascolta che questa settimana non ci ha privato, per noi che ci occupiamo un po' professionalmente di questo tumultuoso sviluppo di cui non si capisce l'approdo dei regolatori italiani, Banca d'Italia e Governo, sulle due banche venete, di molti divertissement così, proprio epistemologici, gnoseologici per così dire, perché abbiamo visto apparire articoli su soluzioni che non si incardinano in nessun modo né nelle vecchie vecchie regole italiane né in quelle che vigono europee. Dal 1 gennaio 2016 abbiamo visto le liquidazioni ordinate, abbiamo visto, e solidarietà ai colleghi del Sole 24 Ore che ieri hanno dovuto scrivere, sono incolpevoli perché i giornalisti devono scrivere quello che raccolgono, no? Dalle fonti, dal MEF e dalla Banca d'Italia, e si parlava di una risoluzione soft, sì. La risoluzione soft che anche prima si fa il bail-in, poi si fa la ricapitalizzazione precauzionale di sale un pizzichino, esatto. Code di rospo e quant'altro. Che il professor Zegovesi, Luca Zegovesi, che abbiamo ospitato la settimana scorsa, anche il professor Zegovesi ha dovuto dire sui social, va bene, questa roba mi fa raggiungere una conclusione, nel senso che o sono scimunito io o sono scimuniti loro, ma detto con rispetto, cioè non ci è mancato un florilegio di, perdonatemi, stupidaggini inconsistenti con le cose da fare. Ma Oscar, secondo me la fantasia italiana che si esprime anche in questi ambiti giuridici. So che siamo riusciti a fare mese dopo mese, oramai anni, bisogna dire, del problema anche delle due venete, ma così è stato per MPS, eccetera, eccetera, un falò perennemente acceso che alimenta la sfiducia motivata di tutti quanti nel mondo, oltre che dei regolatori europei, perché veramente non si capisce più dove stiamo andando. Sui giornali di oggi mi limito a dire questo, prima che poi con Mario e noi andiamo al punto della questione, cioè che cosa si è capito e che cosa è logico fare a questo punto. Mi limito a dire che sui giornali di oggi trovate un Federico Fubini che dice sul Corriere della Sera: ma ragazzi, ma se andiamo a vedere le attività vere, i depositi veri, il peso sul mercato bancario nazionale e locale e il numero di dipendenti che dopo quelli da mandare a casa restano 6.000, ma ne vale la pena, viste che già sono 10 miliardi? Ma scusami, non avevano detto che se saltavano le venete, andavano in risoluzione, si apriva la terra e ci inghiottiva tutti? Esatto. Com'è sta cosa? Quindi, io vi lo segnalo solo per dire questo. Altri quotidiani dicono: Unicredit Mustier ha detto in maniera irrefutabile al governo e a Banca d'Italia: no, non mettiamo altri soldi, e dicono quindi resta Intesa. Sì, oggi tutto un profluvio di Intesa. Molti di qui, Intesa hanno di là. Capito che, e questo però si era chiaro da tempo, cari colleghi, che la fusione dei due istituti a Bruxelles, quindi la domanda diventa: chi si prenda chi in queste condizioni? Ecco, per dire, nel frattempo il Consiglio dei Ministri ieri sera ha sospeso per 6 mesi, no? Forse sì. Sei mesi, e il Lombard che scadeva questa settimana, c'erano in circolo 85 milioni, un TER 2, e per evitare di violare, in attesa sempre di capire qual è la strada che si imbocca, la par condicio creditorum. Esatto. Questo è il motivo. Allora, Gianluca, ci fai capire, numeri alla mano, secondo te che cosa hai capito dell'evoluzione che hanno in testa i regolatori italiani? L'informazione italiana, come si è capito, non ha gli strumenti per descrivere cosa davvero sta avvenendo. Sono finiti in una strada senza una via d'uscita. Che impressione hai? Adesso che tu mi debba far razionalizzare tutto quello che è uscito queste settimane. No, tu di la tua, cioè, di io opinione. Io non sono un mago. No, quindi la tua opinione, numeri alla mano. Allora, io penso che, vabbè, il decreto di ieri sera è una roba che, diciamo, io non capisco, ma si incardina bene in tutto quello che sta succedendo, nel senso che, posto che il legislatore scrive anche, se vuole, che il sole sorge a ovest invece che a est, e quindi in teoria il governo, il Consiglio dei Ministri può scrivere un decreto come gli pare, su quello che gli pare, può anche scrivere che la proprietà privata è abolita. Poi ci sono delle conseguenze. C'è la Costituzione, c'è la European Court of Justice. Il governo scrive un decreto dove dice: per tutte le banche che hanno chiesto la ricapitalizzazione precauzionale dallo Stato, sono sospesi i pagamenti di cedole e capitale sui bonds subordinati. Sì, perché le banche, perché una delle banche, che è la Veneto Banca, ha un bond che è in scadenza il 21 giugno, e se lo paga e poi succede qualcosa di diverso a tutti i bond di quella categoria, tutti i portatori dei bond di quella categoria possono chiedere, possono far causa alla banca perché non sono stati trattati nella stessa maniera, appunto la par condicio creditor. Perché il governo fa sta roba qua? Perché se si guarda il regime di resolution della direttiva BRRD, quel regime dice: una banca va in risoluzione, ma se per certe caratteristiche di quella banca, cioè a mandarla in risoluzione provoca uno squasso all'economia, e quelle banche hanno le certe caratteristiche di, diciamo così, solvibilità, almeno in uno scenario normale, si può chiedere la ricapitalizzazione precauzionale di Stato che è fuori dalla risoluzione, cioè esatto. Le banche non vanno in risoluzione. Allora, io credo che se le banche fossero andate in risoluzione era la Resolution Authority che aveva il potere di impedire il pagamento di quei bonds, no? Cioè, se le banche avessero preso la via della risoluzione, sì. Le banche avrebbero potuto esimersi dal pagare i bond, perché c'era una National Resolution Authority che governava le banche in quel momento. Siccome le banche, sia il Monte Paschi che le Venete, non sono andate in risoluzione, ma hanno chiesto di attivare la ricapitalizzazione di Stato perché, dopo una lunga trattativa, stanno cercando di far capire alla comunità europea e a ECB e DigiComp che hanno i requisiti di solvibilità, allora, siccome non c'è una autorità nazionale di risoluzione che impedisce il pagamento del bond, il governo ha dovuto scrivere quel decreto. Mm-hmm. Questo almeno dopo almeno 22 conference call che ho fatto con tutti gli avvocati della Fidentiis per cercare di capire la necessità di quel decreto. Dopodiché esistono dei precedenti su alcune banche, tipo ce n'è uno su Carige, in cui Carige nel 2013 chiese di poter rimborsare un bond e la Banca d'Italia glielo impedì perché non era chiaro il processo di ristrutturazione della banca che doveva fare un aumento di capitale, eccetera, eccetera. Quindi la Banca d'Italia gli disse praticamente, cerco di tradurlo in italiano, sì, prima di pagare indietro il bond fammi vedere con cosa lo sostituisci. Ricordo. Allora, secondo me questo decreto si poteva anche non fare, nel senso che ci sono dei poteri che anche la Banca Centrale ha per impedire il pagamento di quel bond e per evitare che il mancato pagamento di quel bond si tramuti in un default in del default. Bond e casomai anche in un cross default di tutti gli altri di quelli, bond. Esatto, che hanno la clausola. Però io ho visto già il governo scrivere delle robe nei decreti che erano già, diciamo così, normate anche nelle ultime settimane. E quindi non mi sorprendo più di tanto che abbiano voluto andarci, diciamo così, coi piedi di piombo su questa roba qua. Poi, scusami, per esserci stato anche una consultazione con gli uffici della Vestager per quanto riguarda aiuti di Stato, perché voglio dire, rimborsare un subordinato, magari con proventi derivanti dall'emissione di bond garantiti dallo Stato italiano, è un problema anche di aiuto di Stato, allora, conclamato, si rischiano molte revocatorie. Allora qua bisognerebbe andare proprio nel tecnico, non voglio fare suicidare chi ci ascolta, però diciamo che quando si chiede aiuto dello Stato devono ricorrere alcune condizioni, cioè la banca deve essere solvente, la banca deve superare, diciamo, un test di vitalità minimo. Esatto. Ok. Dopodiché gli aiuti dello Stato si concretizzano in tre modi. Ci sono aiuti sulla liquidità, cioè si può chiedere la garanzia dello Stato per emettere dei bonds che altrimenti non si sarebbe in grado di emettere. Si può chiedere l'aiuto dello Stato per l'accesso alle operazioni di refinancing presso la Banca Centrale. E si può chiedere l'ultimo aiuto dello Stato nel caso di ricapitalizzazione. Allora, il punto qual è però? Che questa eccezione nella BRRD c'è per, diciamo, due ragioni. Uno, che mandare in risoluzione una banca crea un effetto di domino su tutte le altre banche. Sì. Perché la banca è troppo grande, quindi crea uno squasso nell'economia nazionale. Due, ci possono essere dei momenti di mercato molto difficili, per cui anche una banca solvente può avere un problema di liquidità, no, non riuscire ad emettere un bond, perché il mercato non compra bond di nessuno, e a quel punto da non liquida diventa insolvente. Sì. A quel punto si attivano, diciamo, le garanzie dello Stato, che è lender of last resort, come sì, si dice, no? Il prestatore di ultima istanza, sì, che di solito ha accesso ai mercati anche quando gli altri non ce l'hanno. Quindi io credo, dopo che ne abbiamo parlato tanto anche ieri, eccetera, eccetera, che questo decreto sia stato fatto per evitare di prendere rischi, sì, su chi poteva formalmente autorizzare Veneto Banca a non pagare il bond. Sì, sì. Ecco, credo che l'abbiano fatto per quello. Prendono tempo. Tanto per cambiare, conformare la sì, linea. Sì, allora italiana. Il problema, poi, se volete parlarne più in generale, è che qui stiamo andando avanti da mesi. Esatto. Sul Monte Paschi e le Venete, con le cose che sono più o meno chiare a tutti. Oh. Esatto. E il punto vero è che, secondo me, quando tu trascini una situazione di una banca per mesi, poi è chiaro che i problemi, diciamo così, Si cumulano. Ma perché? Ma perché nel frattempo poi i deposti clienti fuggono? Ma cioè, mi pare elementare. Abbastanza ovvio che il punto è che a un certo punto io voglio vedere quanta gente con nonostante che il ministro Padoan abbia detto che il casomai, perché poi mentre fanno questo per cui non vogliono la risoluzione, dicono comunque il bail-in si ferma giù, cioè dicono delle cose che sì, hanno dicono, un effetto di mercato. Esatto. Che se le dicessi io e poi non succedessero sarebbe un reato. Esatto. Però pure se le dicono loro e poi non succedono è un reato anche per loro. Dovrebbe, sì. C'è molta confusione che secondo me denota, se posso, una scarsa conoscenza, non dico della normativa, ma forse anche di quello. Quella è acquisita, la scarsa conoscenza. Ma denota come minimo una scarsa conoscenza di come funziona il business di una banca. Cioè, nel senso, trascinare per anni delle robe fa uscire i depositi. Perché la banca è... Il business bancario è un business basato sulla... Però stiamo parlando proprio dell'ABC e non stiamo parlando di defiance tecniche su norme particolarmente complicate. Stiamo parlando proprio dell'ABC. Cosa vuoi che ti dica? No, ma è la stessa sconfortante conclusione. Cioè, ma poi scusami, io questa settimana lo dico da non addetto ai lavori, ma da giornalista economico-finanziario. Leggo incessanti tentativi da parte dei regolatori di adulterare la rappresentazione storica di come l'Italia ha adottato la BRRD. Questa settimana abbiamo avuto 3 interventi, uno del governatore della Banca d'Italia, uno del direttore generale e uno del vice direttore generale, la cui somma ha portato i tweet della Banca d'Italia a dire che l'Italia ha votato no alla BRRD. Io ho subito twittato: è un falso storico. Gli ho anche inviato, anche in corrispondenza poi diretta alla Banca d'Italia, le dichiarazioni del ministro Saccomanni marzo e dicembre 2013. Marzo è il via politico generale alla BRD, dicembre 2013 è il via di dettaglio alla BRD, che poi diventa direttiva nel 2014, con Saccomanni che diceva un accordo storico, un ottimo compromesso, e invece facciamo scrivere ai giornali italiani che l'Italia ha votato no. Poi dice, a quel punto, di fronte a chi obietta, non sono evidentemente abituati a c'è qualcuno, al fatto che ci sia qualcuno che ha la memoria storica, dicono: no, noi ci siamo opposti tecnicamente, ma politicamente non lo ha fatto il governo. Quindi la polemica di Banca d'Italia retrospettiva è fatta contro Saccomanni, ex vice direttore generale della Banca d'Italia, che all'epoca era ministro, contro Letta, che era presidente del Consiglio, e contro Napolitano, presidente della Repubblica, per essere chiari. Cari colleghi dei giornali, scriviamole queste cose però, perché non è una cosa così secondaria. Se posso dire una cosa, poi non parlo più su questa cosa qua, perché questa cosa l'abbiamo guardata bene dall'inizio, eccetera, eccetera. Tutta questa polemica sui regimi di risoluzione delle banche, cioè come si affronta una crisi bancaria, chi prende le perdite, ok? Perché questo è, diciamo, quello che Banca d'Italia dice. Prima le perdite che prendevano i risparmiatori erano più basse, adesso con la BRRD le perdite che prendono i risparmiatori sono più alte. Tutta la polemica è incentrata su questo fatto. Allora, io bisogna dirlo chiaro, e poi se gli ascoltatori hanno voglia possono prendersi la briga di andare a vedere sul sito di Banca d'Italia, non sul sito di un sito, a meno che non l'abbiano hackerato di recente, però sul sito di Banca d'Italia ci sono domande e risposte sulle banche poste in risoluzione a dicembre del 2015, in cui Banca d'Italia dice: abbiamo risolto l'Etruria, Ferrara, Chieti e Banca Marche con una specie di ibrido che però, diciamo, rispecchia più la BRRD. Esatto. E a una domanda dei risparmiatori che chiedono: ma con la vecchia normativa avremmo preso le stesse perdite che abbiamo preso in questo caso qui? Banca d'Italia risponde: con la vecchia normativa, siccome si doveva andare in liquidazione coatta, le perdite probabilmente sarebbero state anche più alte. Maggiori, non c'è dubbio. Quindi hanno licenziato la persona che ha scritto questa roba qua nel sito di Banca d'Italia. È retrospettiva, come nel sito c'è l'audizione aprile 2015 del governatore della Banca d'Italia in Parlamento, che dice al Parlamento: votate prima che potete la direttiva. E non c'è alcun cenno, cari amici di Banca d'Italia che mi scrivete, alcun cenno a obiezioni. Alcun cenno, né sul tempo di attuazione, né sulla irretroattività, né sul eligible liabilities. Quindi non c'è nelle obiezioni parlamentari. Però evidentemente sbaglieremo noi. Un minuto e torniamo tra... Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in studio, stiamo parlando Banche Venete, del punto di una situazione incerta, resa più incerta però da come governo e regolatori italiani la prendono a calci come una lattina per strada da mesi. Con noi, oltre Gianluca Guadagnone di Fidentiis, c'è collegato una vittima dello sciopero, il nostro Carlo Alberto Carnevale Maffè da Bruxelles. Ma quando riparti, caro Alberto, riescono a farti ripartire? Sì, qua nella felice Bruxelles mi fanno ripartire nel pomeriggio. Volevo però dire una cosa sulle due Venete, perché vi siete dimenticati di dare la più bella notizia in realtà, cioè che è già partito il processo di marketing per contattare possibili acquirenti o sale of business o sale of parts. Questo sta dicendo sostanzialmente il titolo del Corriere della Sera di stamattina. Quindi siamo già ben oltre il commento che state facendo adesso, perché di fatto è partita la procedura che l'SRB prevede per preparare la risoluzione. Se voi andate a vedere la ricostruzione della risoluzione di Banco Popular in Spagna, spiega esattamente che c'è un cosiddetto marketing process lanciato dalle autorità di risoluzione, dove un numero di banche interessate viene contattato per vedere se è interessato a comprare parte o tutta la banca. Questo già presuppone, dal mio punto di vista, che la banca vada in risoluzione. Poi che la chiamino bail-in o meno, come hanno cercato di non fare nel caso di Banco Popular, questo francamente è nominalismo. Ma la verità è che dobbiamo prendere atto che il decreto di ieri sera è a tutti gli effetti un primo passo verso la risoluzione. Dunque, Gianluca Guadagnone, io lo dico per i nostri ascoltatori, bisogna essere chiari, perché poi non vorrei subire contestazioni formali. Da una parte dice, forse alla luce dei precedenti, richiamato quello di Carige, il decreto lo hanno fatto anche perché nell'incertezza tanto vale metterci un timbro, senza che sia chiaro l'esito cui si sta andando. Gianluca Guadagnone, ho capito così? Ok. Sì, sì. Adesso ci dice caro Alberto, e prendiamolo come un passo acquisito verso la risoluzione. Carlo, scusami, sono Gianluca, ciao. Scusami Carlo, però la ricapitalizzazione di Stato presuppone che tu non vada in resolution. Quindi, scusami, io non penso che si vada verso la ricapitalizzazione di Stato. Quando ti sto dicendo che c'è risoluzione è perché... Se ti interrompo un'altra volta, scusami, ma sale of business o vendita di parti del business o vendita del business c'è anche sotto ricapitalizzazione di Stato, perché come sai la ricapitalizzazione di Stato è temporanea, quindi... Sì. Quando tu fai la ricapitalizzazione di Stato, anche lì ti devi preoccupare di uscirne. E tant'è che io così avevo preso il decreto, come sta esattamente dicendo Gianluca adesso. Magari hai ragione tu e si va in risoluzione. Cioè, ti dirò che pure secondo me era meno costoso per il sistema andare in risoluzione. Questo è il punto, cari ascoltatori. Allora, non siamo sostenitori ideologici della risoluzione. Era meno costoso andare in risoluzione. Poi, guarda, magari ha ragione Carlo, non lo so. Però... francamente le cose che stanno succedendo secondo me tirano verso una ricapitalizzazione di Stato di tutti, che in teoria dovrebbe essere 6,4 miliardi, poi adesso vedremo se sarà 6,4 miliardi o 5,2 miliardi, perché prima ci hanno sparato dentro 1,2 miliardi qualcun altro. Allora adesso si va al giornale radio e torniamo, cari ascoltatori. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità, pensa Unica. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta, cari ascoltatori dei Conti della Belva, qui dallo studio della Solata Milano, oltre a Oscar Giannino, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè, che è collegato da Bruxelles. Ci sei sempre, Carlo? Dalla capitale dell'euroburocrazia, buongiorno a tutti. Eccoci qua, e con noi in studio ancora Gianluca Codagnone di Fidentiis. Si è collegato con noi anche, non fare queste risate su, non fare queste risate che sembra che ti stiano strangolando. Si è collegato Fabio Scacciavillani, Chief Economist dell'Oman Investment Fund, editorialista del Fatto Mobile, sì, perché il sito è diverso dal Fatto Quotidiano. Ciao Fabio, come stai? Sto bene, vi saluto e saluto gli ascoltatori. Allora, in sintesi estrema, abbiamo parlato del decreto di ieri, due interpretazioni diverse, ma vedremo solo i fatti, diranno se ha ragione Gianluca Codagnone. Io mi ascrivo al partito di Codagnone. Incertezza, tanto vale metterci un timbro, perché l'intervento precauzionale di Stato è comunque compatibile con quello che poi dice invece caro Alberto, no, è il passo verso la risoluzione per la vendita separata, eccetera eccetera. Vedremo. Il fatto è, cari amici, su questo siamo tutti d'accordo, che prendere a calcio la lattina per mesi di queste banche le rende cadaveri. Cadaveri, cadaveri per i depositi, cadaveri per i clienti che se ne vanno, non stanno più in piedi. E questa cosa confermata anche su UBI, che ha acquisito tre delle good bank, delle risolte, non c'è più niente da tenere in piedi facendo così. Gli spagnoli possono essere criticati quanto volete, l'abbiamo parlato sabato scorso su Banco Popolare, però intervengono rapidamente e intervengono rapidamente senza tante seghe, un bail-in, non è un bail-in, eccetera eccetera. Però i costi rispetto all'efficacia di interventi su banche che non hanno un grande impatto sistemico, come in questo caso delle Venete, lo dico sapendo che molti diranno il contrario, ecco, i benefici di un intervento diverso e rapido sono incomparabilmente maggiori di questa roba. Il mio sospetto, ma qui non metto voi, e poi passo la parola a Fabio Scacciato per chiedere come la pensa lui e tornare poi a Carlo Alberto, e che tutto questo nasca, cioè tutta questa dilazione temporale nasca da un input politico dell'inizio. L'input politico dell'inizio era di Renzi: signori, vedete cosa dovete fare, io non voglio entrare nelle cose tecniche, però bisogna andare oltre le elezioni anticipate. È stato così per queste banche. Nel frattempo siamo riusciti a ricreare un problema di nuovo su MPS, perché ieri l'uscita dei Fortress ed Elliott, questo significa. Ecco, nel frattempo anche la vicenda commissariale, di cui parleremo più avanti, di Alitalia è nata con l'idea di scavallare oltre le elezioni. Mi prendo io la responsabilità politica, perché io non credo che in Banca d'Italia siano impazziti, non lo crederò mai, posso criticarli ma non lo credo, mentre credo che l'input della politica, far scavallare i tempi, abbia portato purtroppo banche che avevano problemi seri, perché depredate da ladri, purtroppo le hanno portate a essere cadaveri. E oggi, fuori di dire non bail-in, non bail-in, faremo la soluzione, ma non bail-in, siamo nella incertezza di come cazzo uscirne fuori da questo punto qua. Questa è la mia opinione. Fabio Scacciavillani, che la pensa? Ma Oscar, io devo farvi una confessione, la devo fare agli ascoltatori, è una confessione scabrosa. Quando da economista leggo queste cronache della crisi bancaria italiana, mi assale una sensazione inquietante, cioè quella di leggere la versione dadaista di un romanzo sadomaso. Però invece di essere ambientato in qualche oscuro boudoir, è ambientato tra Palazzo Koch, Palazzo Chigi, l'Eurotower, la Commissione Europea, Consob, consigli di amministrazione etruschi e veneti. Insomma, se guardiamo bene, ci sono tutti gli ingredienti del genere: gli intrecci perversi, le sottomissioni volontarie dei clienti alle richieste di comprare azioni, i frustini sotto forma di direttive europee, le commissarie descritte in stivali di pelle e guanti borsiati a infliggere punizioni umilianti in forma di requisiti. Dai, di che capitale. Scappa da ridere anche a te ora. E poi ci sono gli amministratori che si descrivono come educandi svizzeri. La Banca d'Italia, la Consob, nella parte delle ingenue fanciulle subornate e violate dall'Europa subdola e cattiva. E poi le ammucchiate dei politici con i banchieri in Toscana, i cappuccetti rossi ma non della TU, le manette ma non di peluche a Siena, eccetera, eccetera. E in questo ambiente depravato il tesoro va alla ricerca di nuove fantasie erotiche alternative al bail-in, perché il bail-in è un'immonda e rozza pratica di stampo barbaro teutonico, quindi non applicabile ai sofisticati gusti di Roma, che fa sulle orge modestamente ha una tradizione plurimillenaria, no? E poi ci sono i twist del topos sadomaso, che sono di assoluto pregio letterario. Nelle versioni classiche dei romanzi, sadomaso è l'uomo di mondo, un po' porcellone, che nell'alcova seduce la verginella ignara delle nequizie del mondo, mentre nella versione dadaista, cioè nelle 50 sfumature di Visco, è la verginella della politica che fa professi indecenti al maturo e potente banchiere. Quindi un colpo di teatro non da poco. E ci sono anche delle pregevoli trovate che da economista non posso esimermi dal trovare geniali. Per esempio l'ingresso di Atlante, no? E quel nano superdotato che in un sol colpo avrebbe impresso al mercato dei crediti deteriorati una traiettoria stellare, risolvendo la crisi bancaria in una settimana. Poi si cala le braghe per la scena madre e si scopre che il nano superdotato è un patetico ermafrodita, le cui miserie vengono ignobilmente destinate a coprire qualche buco, ovviamente contabile, non è che vogliamo trascendere nel dadaismo, ma questa scena è di una, io voglio dire, fantasia straordinaria. E poi, non contenti, adesso deve entrare in scena Atlante 2, che promette dei faianze ancora più turbi e meschine. Quindi, cari amici, io devo ammettere che sto tentando da due minuti di non far arrivare le risate. Io mi sto contorcendo. Guardate, questa è una cosa da antologia della radio economica. Questa è una roba fantastica. Io non so se ti è venuta di getto. Bisogna che tutti dai, ma lo so. Bisogna scrivere piste teatrali, è una roba fantastica, c'è tutto, cari ascoltatori. Fabio, c'è tutto, c'è tutto. Mi sento domani, la traduco, no, la mando a tutti. Questa è da mandare ai clienti. È fantastica, Carlo Alberto, altro che i numerini della Bocconi. Mai sentito, Carlo Alberto? No, ma adesso pensavo di offrire la cattedra di sex economics a Fabio. Ma guarda che toccheresti il record degli iscritti. Ormai... Ah, ma no, ma la intitoliamo Financial Attraction, che così è... Fantastico, fantastico, ecco, senza... Poi oltretutto è fantastico, Fabio Scacciavillani non è come me che cito i nomi, le 50 sfumature di Visco, ragazzi, stavo andando in 50 sfumature di Visco, va bene, Carlo Alberto, ma insomma tu... Devo tornare, mi spiace, al mio punto, perché quando un governo fa un decreto per prevenire eventuali problemi di come dire, messa in liquidazione, i presupposti per la continuità non ci sono più, peraltro secondo me negati dagli stessi uffici di amministrazione che a marzo hanno detto che senza ricapitalizzazione non ci può essere continuità aziendale. Ma come fanno ad approvare la ricapitalizzazione precauzionale in questi casi? C'è sia l'azienda che il governo che ammettono che le condizioni di continuità non ci sono più. Io vi domando come fate voi a credere alla buona volontà. No. Noi non crediamo a nulla, proprio perché non crediamo a nulla, andiamo su opzione. Il mio orso grizzly preferito viene lì a dire che forse c'è la ricapitalizzazione. Non ha detto questo. Non fare il paradossale come sempre. Non ha detto questo. Adesso se mi vuole mettere in bocca delle cose, allora. Andate piano con le fraddoppie. Allora, siamo in fascia protetta, no, scusate, è sabato mattina. Prima di tutto è lui che a Bruxelles se la cavi lui con quelli là. Però, cioè, il punto qual è? Che la Commissione, quando tu fai una richiesta, le banche fanno una richiesta di ricapitalizzazione di Stato e la fanno singolarmente. Dopodiché la Commissione, nella fattispecie il DGCOMP, la direzione della Commissione che guarda alla concorrenza, e l'ICB ti dicono: benissimo, tu hai fatto richiesta per la ricapitalizzazione di Stato, fammi vedere queste condizioni. Uno, che andando in resolution provochi uno squasso della Madonna in tutto il paese, almeno nella regione. Due, che nello scenario base, cioè quando non succede niente di particolare nell'economia, tu hai almeno il 4,5 di equity o l'8 di total capital ratio. Ok. Quindi, fatta questa domanda, parte una trattativa in cui le banche che hanno fatto quella domanda fanno vedere alla Commissione e all'ICB sta roba qui che gli hanno chiesto. Se non glielo fai vedere, la ricapitalizzazione di Stato non te l'autorizzano. Siamo nella fase... Cioè, io mi rendo conto che Carlo abbia perso la pazienza, figurati io. No, che no, tutti però i giorni formalmente siamo nella fase tutti che i giorni dice... dobbiamo scrivere di staminata qua. Allora, formalmente, ragazzi, formalmente mi avete rotto i maroni. Ma su questo siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Vabbè, le cose come stanno. Il decreto di ieri sera è una pietra tombale su qualsiasi ipotesi di ricapitalizzazione precauzionale. Punto. Parliamo di una risoluzione, purtroppo, spero, ben gestita. Spero, diciamo, magari con una quota di NPL, allora, comprati da qualcuno. Carlo Alberto, formalmente come giornalista, ecco, di qui Radio 24 come contratto, ho l'obbligo di dire che quello che dici formalmente non è così. Formalmente, però ho l'obbligo di dirlo. Scusami Carlo, non è proprio corretto, scusami. Ecco. Il problema è che quel decreto non è il presupposto di una richiesta di risoluzione. Il presupposto di una richiesta di risoluzione è la risoluzione. È la risoluzione, appunto. Punto, però detto tutto questo, a nocciolo, vediamo, può essere che sbaglio io. Io di sicuro mi prendo la responsabilità di dire che se c'è stato un disegno di far andare avanti nel tempo perché bisognava scavare le elezioni, quello è fallito. Quindi adesso si raccontano, inizieranno a raccontarsi a fette i guai come conseguenza di questa strategia qua. Perché io non credo che quello di quelle banche resti in piedi quello che... No, ma poi scusami Carlo, poi per dar... cioè perché poi io sono d'accordo con Carlo. Se il punto è... quel decreto non servirà a evitare la risoluzione, barra. La risoluzione era il sistema col costo minore per il sistema. Certo che è così. È allora, comunque, in assenza di queste certezze vedremo la politica come se la caverà. Intanto grazie a Gianluca Codagnone, che se poi vuole restare ci fa felici. E dopo il traffico torniamo con un altro punto. Vedrete che anche su Alitalia l'obiezione formale che vi spieghiamo è: ci fate capire, conti alla mano, il presupposto di quello che state facendo e dove state andando, perché mancano i numeri, non ce li stanno dicendo. Tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della belva. C'è Enrico, sì. Eccoci qui tornati in studio, 11 e 20 minuti e 27 secondi. E andiamo a questo punto a quello che in questa settimana, scambiando impressioni tra noi, ci è apparso come un punto totalmente in ombra, totalmente privo di luce, su cui era necessario, visto che non siamo riusciti a venirne a capo tra noi tutti, attirare la vostra attenzione e lanciare, come vedrete, un appello pubblico, perché abbiamo iniziato a porci un problema. Ma queste dichiarazioni dei commissari straordinari dell'Italia che fanno capire che nell'ultimo mese c'è una gestione con risultati attivi di cassa, si spiega un po' con la stagionalità, però bene così. Ma insomma, uno mette insieme tutte le loro dichiarazioni, i tempi lunghi sulla gara, il piano industriale. Oggi i giornali, c'è stata la rottura ieri con i sindacati, quindi passa la parte della cassa integrazione straordinaria, e si parla di piano industriale a novembre, quando saranno già sei mesi da che ci sono i commissari. I commissari dicono questa settimana: ma ci sono più di 600 milioni di disponibilità, noi abbiamo migliorato la posizione finanziaria, quindi non abbiamo proprio iniziato nemmeno a mettere mano ai soldi del prestito ponte, e abbiamo iniziato su queste basi a porci delle domande, e a queste domande non c'è risposta. Allora, Ugo Arrigo, che è con noi, insegna scienze delle finanze e finanza pubblica all'Università Bicocca di Milano, segue il problema dell'economia dei trasporti da anni e anni e anni. Io lo ringrazio di essere stato un interlocutore fondamentale e vi spieghiamo tramite lui quali sono i nostri dubbi. Professor Arrigo, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti voi, buongiorno e grazie dell'ospitalità. Allora, ma diciamo, i conti 2016 sono un mistero. I conti di Alitalia 2016 sono un mistero. Ma perché, quindi, se dovevano essere depositati per metà aprile, non ci sono? E questo è curioso, perché a metà aprile la vecchia amministrazione, la vecchia gestione era nel pieno delle sue funzioni, quindi avrebbe dovuto depositare la bozza di bilancio, poi l'assemblea dei soci avrebbe dovuto eventualmente approvarla, però quel documento non c'è. Però, voglio dire, chiunque abbia un minimo di esperienza e procedure concorsuali sa che a quel punto c'è il decreto di insolvenza, Tribunale Civitavecchia, ma il governo, per deliberare il commissariamento, vuol dire che compie una sua più rapida due diligence che accerta lo stato patrimoniale, che è la base dell'insolvenza poi proclamata dal Tribunale e del commissariamento. Ma i numeri, sulla base di questa ricognizione, dove stanno? Perché non li sappiamo? I numeri non li sappiamo, quindi gli ultimi numeri ufficiali sono quelli del bilancio 2015 approvato, depositato a metà aprile 2016, quindi risalgono oltre un anno fa. Poi ci sono due cifre che emergono dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia che ha dichiarato l'insolvenza, e queste cifre sono il patrimonio netto di Alitalia al 28 febbraio, che sarebbe negativo per 111 milioni, dopo due mesi di perdite pari complessivamente a 205 milioni. Quindi il giudice del Tribunale di Civitavecchia dice: Alitalia ha perso 205 milioni nei primi due mesi dell'anno e quindi il suo patrimonio netto è diventato negativo per 111. Che uno questo a quel punto implica... si ferma qua e dice: ecco i presupposti di commissariamento. Mio Dio, se qui si perdono 200 milioni in due mesi, significa perdere con questo ritmo più di un miliardo l'anno, patrimonio negativo di 111 milioni. Se non che totalmente sbagliato. Esatto, proprio queste cifre. È la stagionalità perché ovviamente tutte le compagnie aeree che operano nell'emisfero boreale in gennaio e febbraio perdono, sono i mesi peggiori, i mesi in cui chi viaggia per turismo non viaggia, insomma. Ma anche quel patrimonio negativo a fine di febbraio di 112 milioni pone, rispetto all'ultimo dato noto, un problema enorme. Sì, perché ovviamente sottraendo la perdita di gennaio e febbraio verrebbe fuori che il patrimonio netto era positivo per 94 milioni al 31 dicembre 2016. Ah. E quindi vuol dire che nel 2016 non sappiamo nulla di quello che è avvenuto, ma il patrimonio netto è aumentato. Perché quello invece nell'ultimo bilancio depositato relativo al 31 dicembre 2015 era positivo. Era 52. Ecco, siccome la base del commissariamento dovrebbe essere il disastroso, la disastrosa condizione di perdita in conto economico che i giornali da loro hanno avuto l'ordine di scrivere intorno a 500-600 milioni, ma non abbiamo mai visto un bilancio che ce ne dia certezza, che quindi avrebbe dovuto portare il patrimonio positivo per 54 milioni alla fine del 2015 a vette negative. Però siccome non lo sappiamo, se dobbiamo immaginare invece che i dati presenti nella sentenza di Civitavecchia, aggiornati a fine febbraio, di quel patrimonio netto dovrebbero essere ricondotti al fatto che siccome ci sono quei 200 milioni di perdite tra gennaio e febbraio, il patrimonio netto di fine 2016 dovrebbe essere più alto, quasi il doppio di quello 2015, e non starebbe in piedi nulla di quello che ci hanno fatto scrivere sulle perdite di conto economico del 2016. Com'è possibile? Sembrerebbe che abbiano avuto un attivo di 42 milioni. Allora, siccome è evidente che non è così, la domanda è diventata, professor Arrigo: no, c'è qualcosa che non ci torna, cosa può essere avvenuto nei conti 2016 che ci stanno nascondendo? L'unica possibilità è la contabilizzazione di quelle famose perdite sui derivati del carburante che ammontavano nel 2015 a, se ricordo bene, 332 milioni, però nel 2015 non le hanno contabilizzate nel conto economico, me le hanno messe in una riserva negativa di stato patrimoniale, quindi quelle perdite lì nel saldo del patrimonio netto venivano già contabilizzate in negativo, ma in conto economico non c'erano, in attesa di riclassificazione. E quindi l'unica spiegazione può essere che sono queste perdite che sono aumentate, hanno compromesso enormemente il conto economico del 2016, ma non hanno impattato granché lo stato patrimoniale perché erano già state contabilizzate prima. Però vorrebbe dire, questa cosa qui darebbe luogo a una notizia sconvolgente, che la gestione industriale di Alitalia non è in dissesto. Che era molto meglio di quanto ci hanno raccontato. Cioè spiegherebbe il fatto perché hanno pensato di dover comprimere improvvisamente il costo con il referendum e che poi è andato storto, essendo andato storto quello, Etihad ha detto: vabbè, caro governo, allora pensaci tu. Però significa che ci hanno alterato in una maniera sostanziale l'idea della gestione della società. Ripeto, è l'unica illazione che possiamo fare allo stato degli atti, poiché ignoriamo il bilancio del 2016, poiché ignoriamo il presupposto fondamentale su cui è stato disposto il commissariamento. Se la gestione industriale è meglio di quello che si immagina, da una parte tornano un pochino di più le affermazioni dei commissari di questa settimana, ma dall'altra significa che ci restano chissà quanti anni, professor Arrigo. No, intanto la notizia a questo punto sarebbe molto buona, che la gestione industriale, non dico che sia in pareggio, ma insomma lo è almeno nel semestre estivo. Questa è un'ottima notizia anche per la tenuta del numero di lavoratori, eccetera. Però cambia tutta l'analisi. Noi per sei mesi abbiamo scritto sui disastri dell'Italia, sui problemi della gestione industriale, eccetera. E a questo punto però il gioco dei commissari è già fatto, l'Italia è bella che risanata, cioè ha tolto il problema dei derivati. Ripeto, mi sembra che noi sbagliamo se andiamo troppo avanti sull'ipotesi che è tutto sta tutto molto meglio di quanto ci hanno detto. Lo quotiamo in borsa. Però il problema è che constatiamo che in questo paese si assumono decisioni di questa portata sulla base del fatto che non vengono dati i numeri sulla base delle quali dovrebbero essere stati assunti. Questa è una cosa, secondo me, di incredibile portata. Allora, di qui l'appello che noi lanciamo. Perché io temo dateci che se... i conti del 2016. Esatto. Innanzitutto, cari commissari, dateci i conti del 2016. Non abbiamo alcuna pretesa di aver fatto la ricostruzione controfattuale che smentisce nessuno, però capite che il rilievo dei nostri interrogativi è molto rilevante. Se i commissari non dovrebbero farlo, lanciamo un altro appello da questa trasmissione. Cioè, c'è un bond in giro di Alitalia, un bond che è andato in default per via di quello che è avvenuto a maggio, aveva una scadenza al 2020 al 5,75%, erano oltre 300 milioni, il più, se uno andava a vedere chi erano i detentori, capiva che il più era nella pancia della stessa Etihad e di Unicredit, però erano anche, e da allora, da maggio, ci sono state ovviamente molte procedure di selling. Ecco, noi lanciamo un appello a chiunque sia detentore, chiaro che non mi aspetto che lo faccia Unicredit, non mi aspetto che lo faccia Etihad, detentore di quel bond, può fare istanza al tribunale perché venga depositato il bilancio del 2016 e noi lo preghiamo di contattarci, facciamolo insieme, mettiamo gli avvocati, li pago io, li mettiamo a disposizione, però il problema è di un rilievo pubblico essenziale. Non si può consentire, lo dico come giornalista, che la vicenda del commissariamento dell'Italia vada avanti, con piani industriali vanno avanti chissà quanto, senza farci capire in dettaglio la base patrimoniale di conto economico del 2016, alla luce del fatto che quel poco che ci è stato detto non torna minimamente. È una questione elementare per dare conto anche dei soldi dei contribuenti fin qui utilizzati. Professore Arrigo, ci potrebbe essere un'altra strada? No, secondo me no, secondo me no. Adesso mi sono venute in mente due citazioni, una è in Audi, conoscere per deliberare, no? E qui invece, invece è importante deliberare senza conoscere. E poi Churchill sostanzialmente i conti all'Italia 2016 sono un rebus avvolto in un mistero dentro un enigma. Però io ho sufficiente stima per Gubitosi, tenteremo anche di contattarlo, gli manderemo l'audio della nostra ricostruzione, però Gubitosi, per favore, cioè, depositate quel bilancio. Intanto grazie al professor Ugo Arrigo. Grazie a voi. Conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio. Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Questo programma è presentato da Credimi.com, il finanziamento digitale. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati in diretta e approfittando del fatto che avere tra noi Fabio Schiacciavillani, quindi dall'Oman, il fondo sovrano dell'Oman come osservatorio e anche come sede operativa, ci siamo detti, vediamo qual è la sua impressione degli effetti sui mercati, oltre che dal punto di vista geopolitico degli equilibri di potere nella regione, degli sviluppi che sono avvenuti settimane fa e che continuano ad avvenire però come conseguenze sempre più manifeste, per cui l'Arabia Saudita, gli Emirati del Golfo e gli Stati Uniti, col sostegno degli Stati Uniti, hanno detto a Qatar adesso basta. Voi siete finanziatori della Fratellanza Musulmana e di pezzi del jihadismo che sono contro di noi e adesso basta. Le dichiarazioni venute queste settimane, per esempio, di rappresentanti del personale diplomatico dell'Arabia Saudita contro il Qatar sono fortissime. Che ne so, per esempio, dice l'ambasciatore degli Stati Uniti Youssef Al-Outaib che l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti negli Stati Uniti, il Qatar non può essere titolare di quote nel Empire State Building o London Shard e usare i profitti delle partecipazioni che ha in mezzo mondo avanzato dell'Occidente per firmare assegni agli affiliati di Al-Qaeda. Allora, Fabio Scacciavillani, tu questa settimana hai anche reso un'intervista a Bloomberg che dici, ma insomma è una vicenda che però bisogna stare attenti a non credere che si diffonda a onde larghe come un sasso lanciato nello stagno. Perché lo pensi? Ma io vorrei un po' contestualizzare questa vicenda. Perché gli screzi e le frizioni tra Arabia Saudita e Qatar, ma anche tra Arabia Saudita e altri paesi dell'area, ci sono esempi a iosa negli anni. L'Arabia Saudita tra l'altro ha anche un contenzioso di confine con il Qatar, perché ha occupato una striscia di terra che permetteva al Qatar di confinare con gli Emirati Arabi Uniti, occupate legalmente un paio di decenni fa, e quindi le tensioni ogni tanto si verificano. Questa volta è diverso, perché effettivamente la pubblicità e il riverbero internazionale sono inusuali, però nessuno mi toglie dalla testa che qui c'è il vero nodo della questione, non è stato messo sul tavolo. Qual è il vero nodo della questione? È l'appoggio ai fratelli musulmani e ad altri gruppi, ma questo non è una novità. Per di più l'appoggio ai gruppi di vario tipo in Siria è un fenomeno che riguarda un po' tutti, inclusi l'Arabia Saudita. Perché? Perché in Siria c'è una guerra civile, ma non con due fronti, c'è una guerra civile con 5-6 combattenti, curdi, ISIS, al-Nusra, Assad, turchi, russi. Punto l'Arabia Saudita, quindi... però voi siete il corridoio diretto con l'Iran, che infatti è corso subito ad aiutarvi. Un po' questo il punto della geopolitica. Sì, però ripeto, non è un qualcosa né di nuovo né di particolarmente urticante. Il vero punto che non viene messo sul tavolo, perché se andiamo a vedere le richieste ufficiali, quali sono? Non si sa. Si fanno ipotesi, eccetera. Perché? Perché il vero punto dolente è probabilmente l'appoggio, o addirittura si dice il doppio gioco, del Qatar con gli Houthi in Yemen. Gli Houthi sono una tribù sciita che si è ribellata al governo centrale, quindi ha dato vita a questa guerra civile in Yemen che dura ormai da diversi anni, hanno l'appoggio iraniano, e l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno truppe. Hanno truppe, è un impegno pesante e anche molte perdite, molto più di quanto immaginassi. Esatto, e non solo, ma questi Houthi minacciano direttamente il territorio saudita con incursioni e altro. Quindi è lì che la ferita duole. Non il fatto che ci sia... Quindi tu dici una soluzione o comunque un avvicinamento diretto o riservato prima sulla vicenda Houthi Yemen potrebbe far abbassare la temperatura, perché io ripeto... È nella natura delle cose, perché comunque questi paesi sono paesi che hanno popolazioni miste, cioè non c'è una famiglia in Qatar che non abbia un cognato in Arabia Saudita. Ma le ripercussioni secondo te sul mercato mondiale del gas liquido, Qatar insomma da un centro molto importante per questo, per le grandi quote che hanno in grandissime aziende nel mondo, stiamo parlando di un'azienda in cui il fondo sovrano sta in Volkswagen, Glencore, Barclays, eccetera eccetera. Assolutamente. Di tutte queste non cose credo. Qua non credi? Non credo che ci saranno ripercussioni, perché cosa dovrebbe fare l'Arabia Saudita? Costringere il Qatar a vendere la quota in Barclays? Non lo so, però voglio dire, di fatto sulla Qatar Airways gli hanno chiuso una roba che è più del 30% delle rotte, eh? Cioè se la cosa continua così le conseguenze ci sono. Hanno soldi abbastanza in quantità che possono resistere a una faccenda del genere. Quello che nessuno sa è che in realtà lo spazio aereo qatarino è circondato a ferro di cavallo dallo spazio aereo del Bahrain, quindi per uscire da Doha gli aerei devono attraversare lo spazio aereo del Bahrain, però non hanno potuto chiuderlo, perché chiudere lo spazio aereo o bloccare i porti è un atto di guerra, e quindi avrebbe avuto la richiesta fatta di tutti gli Emirati d'Arabia Saudita, caro Trump, leva la enorme base aerea che da 2000 fa capo appunto a Qatar, è una finta o è vera secondo te? Ma è probabile che la richiesta sia vera, però qual è stata la risposta? Gli Stati Uniti hanno detto no, la teniamo. Non solo, ma il Qatar ha comprato degli F-15 due giorni fa dagli Stati Uniti, e quindi questo è un... Gli F-15 sono dei ferri vecchi, insomma, sì. sono aerei della generazione che precedono i Tornado, insomma. Però è stata un colpo di public relation per dire: guardate, l'America contro di noi non ha nulla, tant'è vero che ci facciamo affari, compriamo le armi. Quindi, ripeto, tutta questa è vero che ci saranno delle ripercussioni per qualche settimana ai confini, però insomma del Qatar. Si può essere relativamente non troppo pessimisti. Sì, questa la cosa importante è che si trovi una soluzione che non faccia perdere la faccia a nessuno. Questo l'obiettivo diplomatico, e credo che quando queste tensioni saranno un po' stemperate l'obiettivo si raggiungerà in modo molto più facile. Io non credo che sia una cosa a breve, il problema è vedere cosa succede negli Stati Uniti, perché ripeto, l'impressione è che l'indagine formale verso la presidenza Trump assomiglierà sempre di più alle inchieste su Berlusconi, perché le prime notizie che vengono dal Dipartimento della Giustizia, per il momento non c'è nessuna smoking gun sulla Russia, però le dichiarazioni sono: oramai indagheremo sui reati finanziari, la famiglia, eccetera eccetera. Io non posso più sentire Fabio quando è serio, anche senza pensare al nano superdotato. No, vabbè ragazzi, adesso noi per primi dobbiamo distinguere, io pure, vedi, mi scappa da ridere, ma è così, no? Oggi Fabio Scacciavillani ci ha regalato una perla fondamentale, io ne farò risentire pezzi nelle trasmissioni per tutta la settimana, questo è poco ma è sicuro, perché era esilarante e purtroppo si attagliava nei minimi particolari ai ruoli della faccenda, questo è così, va bene. Volevo aggiungere una cosa al volo, sempre nella mia versione seria. Un punto che è importante è che Trump non ha rinnegato l'accordo nucleare con l'Iran. Sì, sì. E questo, c'era Mike Flynn che era il più strenuo critico di quell'accordo, c'erano altri pezzi dell'amministrazione che insomma non avevano... Ma lui non ha abbracciato la denuncia dell'accordo, è così? No, non solo, ma se tu senti i media conservatori americani, se senti Fox News e similia, vedi che dicono sì, vabbè, questo accordo lasciamolo stare, poi vediamo magari. Quindi dal mio punto di vista l'America non ha granché interesse ad aprire un altro fronte, esatto, su una cosa che poi è difficile risolvere. Esattamente, in pendenza della partita siriana non c'è stato il no al ruolo fondamentale che Iran e le forze sciite hanno nel futuro della Siria. È molto più facile dire straccio l'accordo con Cuba, ecco, da questo punto di vista, per gli effetti che sono da calcolare ex ante poi sull'economia e la geopolitica mondiale. Allora, grazie Fabio Scacciavillani, noi torniamo tra un minuto e adesso andiamo a Renato Cifarelli. Della belva. Ed eccoci tornati qua, caro Carlo Alberto, ci sei sempre, sì? Sì. Sì, ci sono. Ma girano, una roba sull'Italia. Girano voci che in realtà non ti fanno tornare, perché la Banca d'Italia, visto che tu dici che sono già in risoluzione, non ti fa più tornare, ti lascio lì. Dai. No, è all'Italia che non mi ha fatto tornare per via dello sciopero di ieri, però fammi dire una cosa, mancano a questo punto, se è vero che qualche linea, qualche pezzo della compagnia è inattivo, mi mancano i presupposti che hanno giustificato la straordinaria, capisci? Cioè, se, quindi al di là dello stato patrimoniale, che è un problema, se vuoi, contabile, qui c'è un problema sostanziale. Se io presto i soldi a un'azienda che sta andando bene, Quindi mi dispiace, ma non ci siamo proprio come razzo. Quindi scusate, ma se torno al tema del conto economico, perché vale anche per le banche di prima. Se un'azienda è una buona notizia, sia chiaro che nessuno si augura che all'Italia vada male. Però i presupposti non stiamo capendo che cacchio state facendo. Non è che avete inscenato una roba semplicemente perché i soci italiani non ne potevano più e Etihad le cose gli stavano andando diversamente altrove in Europa. Perché poi questi presupposti ci sono, quindi i miei dubbi possono essere anche legittimi come osservatore, però speriamo di riuscire a fargli una cosa. Fammi dire un'ultima cosa sul protezionismo invece di Francia e Germania. Noi che parliamo sempre bene dell'Europa, però dobbiamo anche dire quando invece fa il contrario. La negazione della possibilità di vendere più del 49% a compagnie straniere è uno sgambetto pesante invece alla prospettiva di piazzare l'Italia. Questo è un atto di protezionismo di Lufthansa e di Air France, probabilmente, che dietro alla Commissione Europea hanno lavorato perché l'Italia è così. Quindi qualche così. Sgambetto ce lo fanno qui da Bruxelles, fammelo dire, perché almeno siamo corretti. Dobbiamo essere assolutamente corretti. Renato Cifarelli, ci sei? Buongiorno. La piantate, la pianti di appendere festoni per la festa, per il cinquantenario dell'azienda? Lo sappiamo tutti che è quello che stai facendo. Su, quel festone lì, lascialo là, non ti mettere. Sto lavorando principalmente per una festa in questi giorni. Quindi. No, stai lavorando perché sei stato così sciocco da chiedere i permessi e sai che non te li hanno dati. Me li hanno dati. Ho per fortuna dei collaboratori molto validi. No, molto pazienti. Che sono riusciti. Validi e pazienti, ci vuole sempre una certa pazienza. No, perché con l'amministrazione pubblica farsi dare pubblica. I permessi per appendere un festone, hai toccato con mano quanto possa essere seria la faccenda. Sì, ma tieni conto che noi dobbiamo fare 3 giorni di concerti, quindi praticamente il nostro cortile, secondo me abbiamo più o meno fatto le pratiche burocratiche che ci vorrebbero per aprire un locale nuovo, quindi siamo, credo, a quei livelli lì. Però sì, ci divertiremo, sarà una bella cosa. Vabbè, ma tanto questa settimana lo Stato ti avrà sicuramente dato una mano come impresa su una pluralità di fronti. No, questa settimana mi è andata benissimo, perché io ho passato la buona parte della settimana mentre gli altri lavoravano qua, perché tu sai che l'imprenditore la prima cosa che fa è cercare di far lavorare gli altri e andare in un altro posto quando ci sono le grane. E allora? No, e allora questa settimana invece io, a me è andata abbastanza bene perché ero nel paese che cresce di più, perché ero in Spagna, dove si lamentano di quello che fa il governo. E c'era questa cosa mentre eravamo in viaggio, per cui io gli dicevo: ma vi rendete conto che il vostro governo ha fatto le cose che servivano? Avercene. E quindi siete fra quelli e che come ti rispondevano? Di più. Sai, poi ognuno vede le magagne a casa sua. Però devo dirti che mentre ero sul taxi che mi portava in aeroporto l'altra mattina, sentivo tutte le polemiche che c'erano su Uber, sui taxi, sulle licenze. Il taxista ha subito alzato il volume, devo dire. E anche là hanno la stessa situazione nostra. Quindi hanno una serie di vincoli per quanto riguarda tutta la parte delle liberalizzazioni che è abbastanza pesante. Hai capito? Però, perché anche loro su Uber e su queste cose qua, anche lì i taxisti sono una lobby molto forte, quindi poi non è sempre detto che ma non è che altrove non è che altrove nel mondo c'è l'Eden e noi viviamo nell'inferno. Però insomma, noi ieri abbiamo bloccato un paese intero per un po' di sindacati di base, ecco. Poi sì, il paese intero anche qui è sbagliato dirlo, perché a Milano comunque funzionavano Milano 4 linee su 5 regolare. Roma e anche il traffico di superficie a Roma 3 su 3 erano ferme la metro, e il traffico di superficie non solo era paralizzato, ma i mezzi dell'ATAC non solo scioperavano, si mettevano in fila a 5 all'ora per impedire anche la paralisi, peraltro coerente e conseguente, capito? Ecco, in quel caso io penso che non è che stai scioperando, secondo me stai commettendo un reato, c'è fragranza di reato, per cui però ho visto che stamattina sui giornali anche i sindacati, chiamiamoli maggiori, si stanno confrontando, in particolare la CISL, però è un torneo di parole che io vedo e commento da anni, di solito poi non avviene mai niente, ecco, siccome Del Rio ogni volta dice sono d'accordo, fallo. Però secondo me adesso io sono abbastanza fiducioso, perché secondo me adesso è arrivato il momento. Secondo me è arrivato il momento. Vediamo, allora... io ti ricordo che nel decreto manovrina approvato questa settimana c'è la norma anti-Flixbus, quindi, perché in Parlamento hanno vinto chi rappresenta direttamente le vecchie imprese, che ci sono anche in Confindustria, spiazzate da Flixbus. Avevano preso la promessa di dire no, ma naturalmente la norma sparisce dal mille proroghe. Col cazzo è successo l'esatto opposto. Quindi sai, io prima di essere ottimista, vedere per credere, perché la norma anti-Flixbus è passata, quindi Flixbus adesso dovrà dire via Italia. Quindi questa è la cosa. Nella manovrina c'è lo split payment applicato a tutti gli ordini professionali, e tra l'altro stiamo già aspettando la circolare attuativa che doveva arrivare il 23 di maggio, non c'è, e si paga entro, e il nuovo regime scatta tra pochissimi giorni, la prossima settimana. Come al solito lo Stato ti incula e non ti dice come puoi metterci un po' di vaselina. Quindi caro Renato, io ottimista non mi sento molto, tu invece? No, sullo Stato no, assolutamente, sono assolutamente pessimista, perché il livello di scrittura delle leggi, il livello della politica oggi è veramente infimo. Sono un po' più ottimista sul discorso degli scioperi, dei sindacati confederali. Speriamo. Avremmo bisogno, e qui parlo a casa mia, e quindi più Bentivogli, la mia linea è più Bentivogli della CISL. Abbiamo bisogno più Bentivogli e forse una Confindustria un po' più coraggiosa. Bravo, applausi su questo, rivolti all'editore. Grazie a tutti gli ospiti di questa puntata spettacolare, grazie anche a Fabio Scacciavillani. Quanto riguarda su Radio 24, appuntamento come e Alessandro Milan, che torna lunedì alle 8:20, attenti noi due, con lui prima anche la rassegna stampa.